giochi distesi per te, soldatino, sguardi amorosi per te, giochi senza una musa che ti insegna a combattere, prima o poi ti prenderà. Non si sa, piccolo cuore calpestato da forti vita. Ombre insensate si aprono in te, comandate da grandi, presentati da eroi, catene di odio mai terminate qua giù. Cambiati per gioco, con semi impiantati per muri morti, matriosche infinite di vite rubate, a pretese di un bene mai rivelato, sangue preteso, sangue rubato, con giochi infami di falsa giustizia, giocattoli e morte in un lungo finale, non sei destinato, giocattoli e morte in un lungo finale, è solo follia.